nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, ci sta un popolo di negri che ha invitato tanti bali, più famoso Halli Galli, Halli Galli, Halli Galli. Siamo Roma Rossi, siamo Roma Rossi, gli altissimi neppuri. Noi siamo per il pianeta equatore, vediamo per prima la luce del sole, siamo la Tossi. Siamo la Tossi, siamo la Tossi, gli altissimi metri, quello più basso, quello più basso, e anche 3 metri. Qui ci scambiamo l'amore profondo da 12 baci più alti del mondo, siamo la Tossi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, all'elefante parliamo negli orecchi. Se non credete venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo la Tossi, siamo la Tossi, gli altissimi negri. Ogni 3 passi, facciamo 6 metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per prima la luce del sole, siamo la Tossi. Guardiamo negli occhi, all'elefante parliamo negli orecchi. Se non credete venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo la Tossi, siamo la Tossi, tantissimi metri. Oh mille passi, facciamo 6 metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per prima la luce del sole, siamo la Tossi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per prima la luce del sole, siamo la Tossi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per prima la luce del sole, siamo la Tossi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per prima la luce del sole, siamo la Tossi.